Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, com'è buffo il calcio? Qualche mese fa Luciano Spalletti era tra i candidati, forse il candidato alla successione di Ranieri. Oggi Ranieri, stamane, è subentrato a Spalletti. Pensate alla mattinata di Trigoria, alle 9 arriva Spalletti poco dopo quell'ora, insomma. Passa al centro sportivo, vuol salutare la squadra di persona. Congedo, insomma, i piccoli effetti personali da ritirare, e se ne va. Pochi minuti dopo, a staffetta, arriva Ranieri, che alle 10:15, dopo un lungo colloquio con la squadra, dirige il suo primo allenamento e prima intervista a Claudio Ranieri. Dunque ascoltiamo da allenatore giallorosso. Luciano Spalletti lascia sicuramente 4 anni splendidi, e di questo bisogna dargliene atto. Cosa mi sento di promettere? Cambia allenatore, cambia un po' la filosofia, perché il calcio è uno, però le teste sono tante, per cui le mie convinzioni non saranno le sue, per cui porterò il mio pragmatismo. Non posso dire saremo spumeggianti come lo era la squadra di Spalletti, perché io ho un altro carattere, un'altra mentalità, sono diverso, per cui mi sento di promettere questo, mi sento di dare tutto me stesso. E voi lo sapete che quando dico tutto me stesso sono creduto al 100%, perché se dopo 35 anni ritorno a casa, la voglia che ho è notevole, no? Per cui la squadra che cosa ha bisogno? Ha bisogno di una scossa, ha bisogno di credere in quello che ha fatto, perché 15 mesi fa stava a mezz'ora dallo scudetto, insomma. Vincere uno scudetto significa anche avere quel pizzico di fortuna in più, cosa che la Roma non ha avuto, perché se no l'avrebbe centrato. Per cui stiamo in un momento difficile, con l'aiuto di tutti io sono convinto che questi ragazzi dovranno ritornare a lottare per le alte posizioni. Sono state giocate due partite, abbiamo 0 punti, però il campionato è ancora tutto da giocare, è lungo. E questa squadra merita, e questi tifosi meritano di stare in alto, lottare e sognare. Questo è quello che io mi sento di promettere. La prima intervista di Ranieri da allenatore della Roma, ripeto, poi più tardi ascolteremo anche gli interventi di Spalletti, di Rosella Sensi, altri frammenti di Ranieri. Ci torneremo più tardi, adesso l'appuntamento con il calcio internazionale, dunque con Fabio Tavelli. Fabio, bentornato. Buongiorno Gigi, bentornato a te e a tutti gli ascoltatori che non sono tornati, saranno rimasti, immagino. Ma... Sì. Com'è stata l'estate a Sky Sport 24? La mia è molto bella, perché sono riuscito a prendersi un bel po' di vacanza, no? No, è stata impegnativa, perché credo mai come quest'anno, con la scusa che il campionato del mondo in Sudafrica 2010 ha costretto alcuni campionati a cominciare presto, di fatto il mese di agosto è stato un mese di lavoro pieno, insomma, con chi era in vacanza e chi no, ma comunque è stato un mese molto intenso. Luglio con tante notizie di calciomercato, quindi, certo. Insomma, diciamo che chi diceva che la stagione non durava 12 mesi ma ne durava 10, e che in luglio e agosto non c'era più nulla, adesso non lo può più dire, insomma. No, anche perché, insomma, c'è stato un tempo indubbiamente in cui il calcio d'agosto non contava. Adesso il calcio d'agosto ormai sono 3 punti anche in Italia, no? Due giornate in Europa, tolta la Spagna, i campionati cominciano persino prima, in qualche caso ben prima, e quindi a questo proposito, al giorno 2 settembre, a che punto siamo già in Europa, così a grandi linee? In Inghilterra e in Germania sono già giocate 4 giornate, per cui qualcosa di interessante è già accaduto. In Inghilterra ci sono alcune squadre che hanno giocato solo 3 partite perché impegnate o nei preliminari di Europa League o di Champions League. Comunque qualcosa è già successo. Intanto in Inghilterra lo sappiamo tutti, la partenza davvero eccellente da parte di Carlo Ancelotti, che non ha incontrato ancora grandissime avversarie, però ha già vinto il Community Shield e ha fatto 4 su 4, quindi insomma, diciamo che meglio di così Ancelotti non poteva partire. Dall'Inghilterra sono arrivate voci fino a sabato scorso di pericolo per la panchina di Rafa Benitez, perché perdere 2 partite su 3 non è uno score da Liverpool, anche se il Liverpool forse quest'anno è leggermente più debole rispetto agli anni passati. E poi c'è stata la vittoria contro il Bolton, insomma, il ritorno al gol sia di Torres che di Gerrard nella stessa giornata, quindi diciamo che lì il sereno pare tornato. Pare stabile. La sensazione è che il Manchester United sia inferiore all'anno scorso, perché non puoi perdere Cristiano Ronaldo ed essere uguale. E Tevez, Tevez, che era una bella munizione di riserva, soprattutto nella parte finale della stagione. e quindi la sensazione è che il Chelsea sia la grande favorita per vincere il titolo. Abbiamo rivisto un grande gioco dell'Arsenal, sono cambiati alcuni interpreti, ma il grande gioco di Wenger l'abbiamo rivisto. L'Arsenal è una squadra che forse anche quest'anno non vincerà nulla, ma certamente divertirà sempre quando gioca, e tutto sommato l'Inghilterra ha detto questo. In Inghilterra mi segnalano alcuni ascoltatori, ma già da lunedì, per la verità, quella splendida espulsione di Wenger dalla panchina dell'Arsenal, e lui in quell'atteggiamento statuario, no? Che, torreggiante, fantastico, anche perché ripreso dal basso in tribuna, non correttissimo a parer mio, perché se ti cacciano devi uscire dal campo, non è che puoi andarli sopra, no? Però tutto con grande stile, con grande garbo, insomma, con... Lui riesce a unire molte culture, perché lui è francese, lavora da anni in Inghilterra, ma ha anche delle lontane origini tedesche per nascita e per geografia del luogo di nascita, quindi diciamo che ha messo tutto insieme. È aiutato da questo fisico, sì. Molto alto, molto magro, con questo naso molto pronunciato, ed è una persona certamente di grandissimo garbo, e quindi diciamo che fisicamente non ha tanto bisogno di parlare, no? spesso basta semplicemente vederlo per capire cosa pensa. Sì, non siamo lontani dalla pausa del traffico, però io introduco un discorso che magari potrebbe essere un tantino più lungo, poi al massimo lo interrompiamo. Sì. Ed è questo: io ho una preferenza tra questi campionati europei, che non è una preferenza estetica, perché certamente il calcio che si vede in Spagna e in Inghilterra è di qualità superiore. Ho una preferenza, ho un debole per il campionato tedesco. Perché? Perché è il campionato più equilibrato che esista, anzi è l'unico campionato davvero equilibrato in Europa, perché un anno lo vince il Wolfsburg, perché un anno lo vince lo Stoccarda, poi ritorna il momento del Bayern Monaco, ma non c'è mai la dittatura di una squadra o di due, c'è un principio di alternanza notevolissimo. Tutto questo mi pare, non credo di sbagliare, però poi mi correggi tu, in maniera naturale, cioè non è che sono stati imposti salari capo o niente di simile, no. È che lì ciascuno fa il passo secondo la sua gamba, ed essendoci un livellamento naturale dovuto ai bilanci che devono filare, perché in questi tedeschi non scherzano sto granché, morale, una volta vince uno, una volta vince l'altro. Campionato magnifico da quel punto di vista. Campionato magnifico, è campionato che l'anno scorso aveva addirittura 5 squadre praticamente in volata. Poi il Wolfsburg non è una squadra costruita così per caso, nel senso che ormai è una squadra che ha un grande gruppo automobilistico alle spalle, è una società che sa trattenere un giocatore richiesto dal Milan, stiamo parlando di Dzeko, cose che forse qualche anno fa non sarebbero accadute, e quindi questo è molto significativo. Parliamo di un Bayern di Monaco che sì, è una grandissima squadra, ma era stata un po' emarginata dal palcoscenico più grande nelle ultime stagioni, ed è una squadra che ha saputo trattenere Ribéry, che ha preso Robben, che ha ridato una panchina a Van Gaal, e tutto sommato la bellezza dei campionati spesso le fanno sia le terze e le quarte forze, quello che in Spagna sono il Siviglia, il Valencia, o è stato il Deportivo La Coruña, cioè squadre che sono riuscite a contendere alle grandi e che adesso non ci riescono più, come in Italia una volta erano le cosiddette sette sorelle, no? Fiorentina, Parma, la Lazio, la Roma, che riuscivano a contendere lo scudetto. Non importa vincerlo, importa contenderlo fino alla fine. Giocarsene, insomma, che ci sia equilibrio, che ci sia alternanza. In Germania questo accade, perché comunque Werder Bremen, Hamburgo, Stoccarda, l'anno scorso il girone d'andata l'aveva vinto l'Hoffenheim, il Wolfsburg poi ha vinto il campionato, insomma sono squadre che magari non fanno sognare i bambini, no? Perché ci sono anche giocatori nuovi, alcuni misteriosi, e i giocatori tedeschi di nascita non sono tantissimi di alto livello, però sono riusciti a prendere giocatori che sono diventati interessanti, perché Diego era già bravo quando giocava nel Santos, però nessuno l'ha preso, l'hanno preso i tedeschi, l'hanno fatto diventare come dire una stella di prima grandezza, e poi la Juventus l'ha preso e ha pagato il suo, ma questo si fa. Si diceva con Fabio Tavelli di questa alternanza che ma io direi da sempre, ma in ogni caso negli ultimi anni fa certamente più effetto, paragonato alle dittature che esistono negli altri campionati, italiano, inglese, spagnolo, l'alternanza tra una squadra e l'altra. Riscontro immediato, numerico, i numeri in questi casi non tradiscono mai. L'unico campionato che lo scorso anno ha registrato un aumento di spettatori è stato quello tedesco, e quindi evidentemente il pubblico paga anche anche, non solo per stare in stari comodi, e quelli tedeschi sono gli ultimi rifatti per un mondiale, quindi questo è evidente, non solo per stare in stari comodi, ma anche per andare a vedere una partita senza sapere già prima com'è il finale. Sì, questo hai detto cose molto interessanti. La prima riguarda i mondiali, due dati facili, non numerici. Il primo è che gli stadi sono belli e che gli stadi sono molto confortevoli, sono comodi, è comodo parcheggiare, è comodo arrivarci e sono molto comodi, tutti i posti numerati, stadi veramente belli, non soltanto nelle grandi città ma anche nelle piccole, al punto che a parer mio, quando si misura un movimento calcistico non si deve prendere soltanto l'eccellenza, cioè la Serie A piuttosto la Premier League, la Liga o quant'altro, ma bisogna prendere le prime tre serie. Sì, se guardiamo la Zweite Bundesliga, cioè la seconda serie tedesca, ebbene, io ti assicuro che ci sono partite dove ci sono 30, 40, 50 mila persone a vedere le gare. 50 mila persone oggi, 50 mila spettatori, non so se tutta la Serie B italiana li fa, non credo. Dipende dal calendario, dipende se le Lecce, Regina, Torino, così giocano in trasferta, ma non lo so. Comunque, la giornata in cui quelle tre lì giocano in trasferta, non so se arrivi al pubblico pagante di uno stadio solo tedesco di Serie B, di seconda divisione. Questo è un problema di leghe prima che di federazione, so che la federazione conta sulla nazionale, le leghe contano sui campionati, quindi evidentemente è anche abbastanza normale, mi pare, che la Serie A abbia mollato la Serie B, mentre invece la Bundesliga, vedi che chiama Bundesliga 2, la Zweite Bundesliga, perché evidentemente sa che se il Kaiserslautern retrocede dalla Bundesliga alla Zweite Bundesliga, dà comunque un valore alla Zweite Bundesliga e non viene dimenticato nella seconda serie, perché sanno che poi potrebbe tornare e tornerà con un carico di entusiasmo anche superiore. Ma a parte questo, i tedeschi stanno ancora sfruttando l'onda lunga del Mondiale, perché l'onda lunga del Mondiale è partita quando fu assegnato il Mondiale alla Germania, quindi almeno 4 anni prima del 2006, ma sta continuando perché è stata fatta una politica di ampio respiro, per cui il calcio, e bastava vedere le televisioni tedesche, o basta vedere le televisioni tedesche anche in questi giorni o comunque in queste stagioni, è riuscito a proporsi in un modo leggermente diverso e non soltanto legato all'aspetto dei 90 minuti o della chiacchiera successiva, e ha fatto diventare delle partite, dei piccoli eventi che sono molto più seguiti che in altre parti. Aggiungiamoci anche che il peso delle televisioni è un peso importante. Ad esempio, in Inghilterra non tutte le partite vengono trasmesse, quindi è evidente che chi non ha la possibilità di vedere una partita in televisione è più incentivato ad andare allo stadio. Ma non c'è dubbio. No, non dovrei essere io a dirlo. No, anzi, guardi, io non ho sentito e nessuno ha sentito questa frase. Rimane il fatto che gli stadi sono migliori, ci sono un sacco di altri parametri che funzionano meglio, ma c'è anche la considerazione che se vai a vedere Hamburgo Borussia Dortmund piuttosto che Wolfsburg Bayern di Monaco, il risultato non è preconfezionato da una superiorità netta o troppo netta di una squadra sull'altro. No Gigi, scusa, ti aggiungo anche che il Bayern di Monaco è andato in crisi, non in crisi irreversibile evidentemente, perché poi ha battuto bene il Wolfsburg 3-0, ma alla terza giornata il Bayern di Monaco ha perso dal Mainz, e il Mainz era retrocesso due stagioni fa, poi è tornato su, ha cambiato allenatore prima dell'inizio del campionato, ha perso la prima giornata e ha giocato contro il Bayern di Monaco e ha vinto. E l'ultimo dato disponibile sugli spettatori e gli stadi tedeschi paganti più abbonati lo scorso anno è 42.000 ed era media. Circa in ogni stadio e in ogni giornata. Questo significa che è stato l'unico dato con la freccina verde all'insù dello scorso anno in tutta Europa, compresa Premier League e Spagna, che pure non hanno da lamentarsi. Ci sono alcuni ascoltatori, per esempio Andrea, per esempio Federico, che si dicono certi della mia buona memoria sul fatto che domani è il 3 settembre ed è l'anniversario, il ventennale della scomparsa del grande Gaetano Scirea. Beh, insomma, credo vi possiate fidare fin qua, no? Perché c'era una bella intervista a Zoff, ho letto. C'è una fantastica intervista a Zoff su Repubblica di ieri, che domani riproporrò in parte con altre cose, ma insomma che ci sia il rischio di dimenticarsi di un grande dentro e fuori del campo come è stato Scirea, datemi quel minimo di fiducia, perché questo sinceramente non può accadere. Ma è domani l'anniversario, è il 3 settembre. discorso giovani, argomento giovani, prelievi forzosi in giro per l'Europa, nelle società, mi sembra che sia un tema sempre caldino questo. Sì, è un tema sempre caldino ed è un tema che quando le società fanno quelle che prendono dicono che va tutto bene, quando le società fanno quelle che vengono a loro dire derubate, allora ci si scandalizza e così. Ma io in questo, guarda Gigi, ho una posizione di non lo so, perché da un lato è chiaro che bisogna difendere chi insegna a giocare a calcio e chi poi mette, dico in maniera molto brutale, mette sul mercato questi giocatori, questi giovani talenti. C'è anche un altro fatto che quanti giocatori forti non lo sono diventati perché male allenati, mal curati, mal gestiti in settori giovanili poveri o semplicemente dilettantistici o semplicemente sprovveduti o così. Cioè, se il Barcellona non avesse creduto in Leo Messi quando aveva 12 anni, pagandogli delle spese, portando la famiglia a Barcellona, noi non avremmo visto Leo Messi, non certo. Sapremmo nemmeno, non ne avremmo nemmeno sentito nominare il nome e il cognome. Quindi da questo punto di vista io non lo so, è chiaro che quando un ragazzino di 14-15 anni prende e va in Inghilterra piuttosto che in un altro paese, fa un'esperienza che può essere meravigliosa ma può anche essere devastante. Gli esempi spesso sono positivi, quando parliamo di Federico Macheda, la storia di Macheda è certamente una storia interessante ed è certamente una storia edificante e di buona, anche di buone letture. Purtroppo vengono fuori spesso e soltanto quelle belle, perché poi vediamo il giocatore che gioca e il giocatore che si afferma. Quando invece parliamo di esperienze passate con giocatori quasi deportati da paesi africani e fatti diventare quasi carne da cannone, allora lì il discorso un po' cambia e forse una regolamentazione un po' più certa e un po' più rigorosa andrebbe prodotta. Non c'è dubbio. Ci sono ascoltatori che con i loro sms ci suggeriscono ulteriori argomenti. Per esempio c'è un torinese con moglie ucraina che racconta di un viaggio avventuroso prima e disastroso poi nell'Ucraina in estate, e si domanda come farà questa nazione tra poco ormai a ospitare un campionato europeo. Io invece chiuderei oggi con, insomma, ci sarà tempo evidentemente perché gli europei non sono esattamente ancora dietro l'angolo. Chiuderei con le due giornate che l'UEFA ha rifilato a Edoardo dell'Arsenal per simulazione, perché mi sembra un altro segnale interessante di un cambio di gestione e di orientamento da parte dell'UEFA. Sì, l'Arsenal ha protestato molto per questo. L'ha presa male, sì, è vero. L'ha presa male, però questa è la riforma, questo è Platini, cioè questo è il segnale che Platini ha dato. Basta scorrere i nomi delle squadre nei gironi di qualificazione della Champions League per vedere che comunque la sua mano già c'è. Può piacere o non piacere, può piacere o non piacere che i giocatori prendano due giornate per simulazione. Credo che la politica che sta facendo Platini possa essere inizialmente mal digerita, perché comunque quando sei abituato per tanto tempo, per tanti anni a un certo tipo di gestione, poi fai fatica. Però poi nell'arco di 5-6 anni, lui riuscirà ad andare avanti, se lo faranno andare avanti, sì. Nel senso che se avrà la possibilità di continuare, io credo che da un lato potremmo vedere giocatori più corretti in campo e da un altro potremmo vedere una Champions League che già dai gruppi e dalla fase a gironi esprimerà un calcio migliore, perché il Debreceni piuttosto che il Rubin Kazan, sì, piuttosto che altre squadre, o il Maccabi Haifa, diventeranno squadre più forti e quindi più capaci di contendere già da subito il passaggio di turno alle altre squadre. Se noi pensiamo, bravissimo, che debbano giocare semplicemente le 5, 6, 7, 8 squadre, beh, allora facciamo un girone con loro, chiamiamolo Super Champions League, facciamole giocare 20 volte l'una contro l'altra. Come fanno d'altra parte già in estate in amichevole, fin dalla prima amichevole. Questo è un modo, questa è una via. Se loro vogliono farlo, lo facciano, va bene, noi tanto le vedremo tutte perché poi alla fine le vediamo. Però staccheremo completamente il vertice dalla base. Se invece vogliamo pensare che sia più divertente anche vedere una partita di Champions League di girone un po' combattuta, senza il risultato scontato, bisogna passare anche da questa fase e sopportare magari per un paio di stagioni il Debrecen, il Rubin Kazan o il Maccabi Haifa, che magari saranno sorprese gradevoli come fu lo Zenit San Pietroburgo qualche tempo fa, per esempio, mostrandoci anche del calcio come si calcio eccellente. E infatti lo Zenit poi è stato saccheggiato, questo dimostra che la rivoluzione ancora non è compiuta, perché lo Zenit San Pietroburgo, che vince la Coppa UEFA e che poi comunque diventa una realtà importante, poi ha perso i tre grandi giocatori che aveva, li ha persi perché sono andati in altri campionati. Il giorno in cui lo Zenit San Pietroburgo riuscirà a tenerseli, come sta facendo il Wolfsburg, allora probabilmente avremo una squadra capace di competere e cambieranno i nomi dei soliti noti, insomma. Grazie Fabio. A voi, alla prossima. Grazie, chiudiamo questo collegamento. Vi anticipo che domani, oltre al ricordo di Gaetano Scirea, ci sarà spazio anche per un'altra riforma che Platini sta, non soltanto questa a cui accennava adesso Taverni. Domani Marco Bellinazzo ci parlerà di quella invece economica che ha fatto per il controllo dei bilanci delle società, che ha fatto passi importanti in avanti in estate. Abbiamo tempo prima dell'intervallo di ascoltare un paio di interventi, se sono un po' sintetici. Pasquale da Modena, buongiorno. Buongiorno, senta, io volevo chiederle una sua opinione in merito alla sostituzione della panchina della Roma da Spalletti a Ranieri. E volevo chiederle riguardo alle responsabilità, perché Spalletti, da persona per bene, si è assunto, diciamo, tutte o quantomeno le responsabilità di questa via di campionato. Però io volevo chiederle se, più che il dito verso Spalletti, non c'è da puntarlo verso la società Roma, perché vorrei ricordare che praticamente è rimasta ferma al palo per quanto riguarda il mercato in entrata e anche in uscita fino a qualche settimana fa. Quindi tutte le responsabilità, diciamo, Spalletti giustamente dal ruolo che ha se le è prese, però obiettivamente la Roma ha molte più responsabilità, la società Roma ha molte più responsabilità rispetto a Spalletti. Volevo sapere la sua opinione. Confermo e sottoscrivo, non c'è nessun dubbio. Spalletti non solo, ma Spalletti se n'è andato da signore dimettendosi, e se c'è una frase, dopo ascolteremo altri interventi, ma se c'è una frase che ho trovato assolutamente inspiegabile dal mio punto di vista, è una notizia, un'agenzia di poco fa, in cui Rosella Sensi dice: ringraziamo Spalletti per le emozioni che ci ha fatto vivere, e va bene, la sua è stata una scelta dolorosa, e va bene, noi abbiamo preso atto, e va bene, lo ringrazieremo sempre per quello che ci ha fatto vivere, e va ancora bene, ma dal punto di vista umano non mi aspettavo che abbandonasse la nave in questa situazione. Sinceramente questa frase non la capisco. Più tardi avremo probabilmente un intervento di Rosella Sensi e sentiremo se riguarda questo concetto. Sentiamo allora questo intervento, chiedo di Rosella Sensi, perché c'è un mezzo giallo, mi segnala dalla regia, nel senso che questa è una notizia dell'agenzia, l'ho appena letta, è stata battuta dall'ANSA, e dell'ANSA non è lecito dubitare, ma non ce n'è traccia invece nell'intervento vocale, diciamo, della Sensi. È anche vero che ormai dirigenti, allenatori e giocatori parlano a ripetizione, cioè parlano ai microfoni prima, ai taccuini poi o viceversa, e comunque diciamo che è un concetto. Sentiamo l'intervento registrato del presidente della Roma, Rosella Sensi. Per me è doveroso in questo momento fare un particolare ringraziamento a mister Luciano Spalletti, perché nel calcio purtroppo mi sono accorto che la memoria è corta, ma noi non ce l'abbiamo corta, quindi dobbiamo assolutamente ringraziarlo per quello che ci ha dato, per le emozioni che ci ha fatto vivere e quello che ha fatto. È stata una sua scelta dolorosa, come nei rapporti soprattutto umani che si instaurano per tanto tempo. Abbiamo rispettato la sua scelta e ne abbiamo preso atto. In questo momento lo ringraziamo e lo ringrazieremo sempre di quello che ci ha fatto vivere. Ma sono felice altrettanto di presentarvi il nuovo allenatore della Roma, mister Claudio Ranieri, felice per mille motivi. Il primo, perché è stato un nome che mio padre, Franco Sensi, ha fatto nel tempo, ricorreva nelle sue scelte, nelle sue decisioni, quindi in un certo senso sono contenta che in questa occasione ho continuato a dare retta ai consigli di mio padre e poter scegliere la persona che avrebbe scelto lui in questo momento. Non c'è traccia di quella frase, quindi evidentemente sarà, dato che non dubito dell'ANSA, ripeto, sarà stata pronunciata in un altro momento e magari in un altro contesto e di fronte ad un'altra domanda. Prima di dare spazio agli ascoltatori vorrei ancora però ascoltare la voce di Spalletti, anche perché insomma abbiamo fatto la cura in questi 4 anni, ma adesso fatalmente per qualche tempo non capiterà di sentirla, e la voce di un, a mio parere, bravissimo allenatore, oltre che signore, ma signore vero fino all'ultimo atto, ripeto, quello delle dimissioni, insomma, si ascolta sempre volentieri. Il rimpianto di Spalletti. Eh sì, quello è il rammarico più grosso, perché poi siamo arrivati veramente vicini e ci sarebbero anche delle cose da andare ad analizzare bene in profondità, però il risultato del campo poi va sempre accettato, e è un risultato di tutto rispetto, perché siamo arrivati lì a contendere lo scudetto a una grandissima come l'Inter. L'avventura di quasi un anno e mezzo fa, ormai, e evidentemente se fosse finita diversamente sarebbero poi probabilmente cambiate le cose, ma questo accade sempre e non soltanto nel calcio. Cristian domanda se Baresi, mi domanda seccamente, Baresi o Scirea, sono 20 o 30 anni che ogni tanto te lo domandano in maniera secca, ho sempre risposto Scirea, non cambierò mai idea. Stefano dalla Spezia, buongiorno. Buongiorno, e volevo cambiare argomento, volevo sapere una cosa, se nell'Inter comanda Mourinho o Moratti, perché Mancini l'ultimo giorno di mercato alle 4 del pomeriggio era stato acquistato dal Genoa, tutto deciso, è arrivato dopo 10 minuti il diniego, il niente di Mourinho, che ha bloccato la vendita. Facendo un regalo al Genoa, a parer mio, perché... Io non lo so questo, io ho l'impressione, le mie supposizioni sono due. Io sono 3 anni che non la piglia, no? No, però le mie supposizioni sono due. Una, che mi illudo, non volesse usare una concorrente, ma devo dire che non è questa. La seconda, che invece, se Mancini andava al Genoa, forse con un allenatore Gasperini di indubbia qualità, si potrebbe essere rigenerato, dimostrando che poi Mourinho non è sto grande allenatore. E poi, voglio dire, mettendo anche i rapporti tra Genoa e Inter in maniera che ottimi, fra le altre cose, che il Genoa giustamente gli ha dato 2 giocatori pagati, era Moratti, aveva dato la parola preziosa, dovuto mangiarsi la parola. Solo questo, grazie. Grazie a lei, Stefano, sinceramente non sono in grado. Io credo che un plenipotenziario come indubbiamente Mourinho è nell'Inter, ma come un tecnico dovrebbe essere in una società, dovrebbe avere l'ultimo diritto di parola e quindi di veto o di richiesta. Poi mentre sulla richiesta può essere più difficile accontentarlo, su un veto tutto sommato lo è un pochino di meno. Ripeto, avendo visto Mancini lo scorso anno in qualche scampolo di questa fine estate e l'ultimo anno nella Roma, io credo che sia uno scampato pericolo per il Genoa. Carlo da Cosenza, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Io, il mio argomento di cui volevo parlarle è di Cassano. Cassano. Cassano, mi sente? Certo. Mi sente? Ok, ecco, io volevo fare una piccola premessa, se è possibile. Sì, che duri... Ce la caviamo in giornata, sì. Un secondo solo, nel senso che siccome è un argomento abbastanza... di cui si parla abbastanza spesso, volevo solamente sgombrare il campo da possibili interpretazioni, nel senso che quello che voglio dire è questo: non credo che Lippi debba chiamarlo solo perché si chiama Cassano e sta facendo quello che sta facendo, ecco, cioè Lippi può fare ovviamente le sue scelte come meglio ritiene, no? Io credo che dovrebbe essere solamente un po' più chiaro con tutti noi e dire che se non lo vuole, perché non lo vuole. Sì, anche se non credo che la Corte di Cassazione possa costringerlo ad esprimere per iscritto delle motivazioni, però invece di risponderle io, sentiamo proprio ieri che cosa ha detto Lippi a questo esatto proposito. Io non ho niente contro Cassano nella maniera più assoluta, è un professionista, un ragazzo simpatico, e ognuno di voi ha le sue idee rispetto ai vari sondaggi, l'opinione pubblica, che dire, però io faccio con la mia testa e vorrei che anche voi rispettaste le mie. Fin qua Lippi, io credo che conoscendo quanto è dura la capoccia di Lippi, non credo tornerà indietro. Vedendo come continua indubbiamente a migliorare da un certo punto di vista e ad esprimersi, a che livello si esprime Cassano e a che livello soprattutto si esprimono gli altri attaccanti del giro azzurro, che mi sembra il dato oggettivamente inquietante, no? Da ormai molto tempo a questa parte prevedo mesi non semplicissimi da questo punto di vista per il CT, ma, insomma, ma fa parte del suo ruolo. Giorgio, provincia di Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Io volevo agganciarmi al discorso che avete fatto prima sugli spettatori negli stadi. Mm-hmm. Io sono abbonato all'Inter da 10 anni e vado allo studio da quando ne ho 8, quindi penso di avere un po' di esperienza per dire queste cose, a differenza di chi fa delle nuove leggi o presunti tali che fa allontanare solo la gente dagli stadi. Va dal biglietto terminale, la testa del tifoso e anche, come ultima cosa, anticipi e posticipi decisi una settimana prima, cambiamenti di orari in base alle televisioni. Cioè, secondo me con queste cose la gente si allontana dagli stadi. Non, poi Giorgio, fa comodo io... dire che la colpa è degli ultras perché c'è violenza, che poi all'interno dello stadio violenza non c'è. Beh, insomma, no, non c'è neanche questo clima, non c'è il clima che c'è negli stadi tedeschi. E comunque, Giorgio, siamo fuori strada. Se continuiamo a usare l'alibi delle televisioni, siamo fuori strada, perché le televisioni hanno stravolto il calendario anche in Germania, esattamente come hanno fatto a tutte le altre parti, perché non ci sono benefattori televisivi. Se la televisione paga, se le pay TV pagano quello che pagano in tutti questi paesi, poi in ciascuno di questi paesi pretendono. Allora, in Germania, per esempio, hanno preteso e ottenuto l'anticipo del venerdì sera. Non faceva parte delle tradizioni tedesche l'anticipo del venerdì sera, invece adesso lo è. Poi le partite si giocano al sabato pomeriggio e ci sono due posticipi domenicali. Se lei prende il campionato italiano è la stessissima cosa, perché ci sono tre partite staccate dal contesto della giornata, quindi siamo pari. In Inghilterra è ancora più frantumato, in Spagna dipende un pochino dai momenti, ma in nessuna di queste nazioni c'è stato il crollo di pubblico che c'è stato in Italia, quindi non è questo. Anzi, dove le pay TV mostrano un grande calcio da un punto che tecnico e, come dire, ambientale, in questi paesi il calcio televisivo fa da volano e ti fa venire voglia di andare la volta dopo allo stadio a vedere lo spettacolo dal vivo. Qua quello che noi vediamo in televisione e quello che poi sentiamo raccontare ti fa scappare la voglia anche a quei pochi che l'avrebbero, se vogliamo raccontarcela vera. Se poi vogliamo continuare con gli alibi o con le musse, possiamo anche continuare. Giulio, provincia di Modena, buongiorno. Buongiorno Granzini, è un piacere risentirla dopo la pausa estiva. Una cosa di questo tipo, mi rifaccio agli stadi e al pubblico. Io non credo, come avete appena detto, che il problema siano le TV, perché addirittura in Inghilterra giocano il Santo Stefano il primo dell'anno, adesso non ricordo esattamente, ma in giorni dove qui si direbbe che la gente fa il ponte, quindi, e gli stadi sono pieni comunque, quindi non credo sia un problema di calendario e nemmeno di TV. Ma gli stadi sono per me l'elemento, e l'accesso agli stadi stesso, come dicevate con Travelli, è fondamentale. Mm-hmm. Andare oggi a vedere una Champions League in uno stadio italiano significa partire 7 ore prima, arrivare 3 ore prima allo stadio, fare un filtro, un prefiltraggio, un altro prefiltraggio con tutto quello che è annessi e connessi, per vedere uno spettacolo che, io ho un amico che abita a Glasgow in Scozia, si reca alla partita 1 ora prima e nessuno dice, e non ci sono disordini, perché lo stadio è uno stadio di calcio, non un pollaio. Sì, questo certo. È il. E la Serie B, mi viene solo in mente questo emblema. Stadio di Crotone, mi sembra sabato, era vuoto perché non è agibile, però non. Il Crotone in Serie B deve giocare in uno stadio non agibile, a porte chiuse per la sicurezza. Questa sì, è la differenza. Certo, tra le immagini che contribuiscono ad allontanare ulteriormente il pubblico degli stadi, ci sono anche le immagini di come questi stadi siano vuoti, perché poi è un fenomeno, no, anche di contagio, mi verrebbe da dire. Lei noti come i registi televisivi prediligano il gioco a rasoterra, più ancora dei tecnici che la palla la vorrebbero giustamente sempre a rasoterra, perché finché la palla è a rasoterra non sono costretti a alzare le telecamere e a inquadrare il deserto dei tartari che c'è sulle tribune e che ormai sappiamo esserci da anni. Ogni tanto c'è un rinvio a campanile, la telecamera si impenna di colpo e a Cagliari, a Brescia, cioè dove volete, a qualunque latitudine, vedete queste cattedrali completamente disabitate. E questo io pensavo 10 anni fa, che 8 o 7, poi progressivamente venendo avanti, che avrebbe fatto riflettere. Mi sembra che invece abbia fatto riflettere abbastanza poco sino a questo momento. Lippi è come i bambini, scrive Gioele da Parma: più gli dici di fare una cosa e meno la fa. È carino il messaggio, poi, ma magari non gli dispiacerebbe nemmeno, perché insomma quando si ha la nostra età, io ho l'età di Lippi, insomma, se ci danno dei bambini tutto sommato non ci fanno arrabbiare. Sono di Belluno: per andare a vedere una partita con mio figlio devo andare fino a Verona a fare la tessera del tifoso. È assurdo, scrive Roberto. Sono completamente d'accordo con lei. Domani con l'aiuto di Marco Bellinazzo affronteremo proprio questo argomento insieme. Ovviamente ve l'ho già anticipato a un ricordo come si deve di Gaetano Scirea. Scirea vuol dire storia, il ripasso di storia di oggi, 2 settembre, cosa è successo negli anni, lo racconta come sempre Nicola Filippone. Sembra ieri. 2 settembre 1973. A Barcellona, Felice Gimondi si laurea campione del mondo di ciclismo su strada. L'italiano si impone in volata, beffando Eddy Merckx, grande favorito della vigilia, e il promettente velocista belga Freddy Martens. Gimondi aggiunge così a una bacheca già popolata da trofei prestigiosi anche il titolo iridato, che aveva in precedenza sfiorato in 2 occasioni: nel 1970 a Leicester, Inghilterra, quando si era piazzato terzo, e nel 1971 a Mendrisio, dove aveva chiuso in seconda posizione, dietro al solito Merckx. Già, Gimondi. Allora, Vincenzo ha chiamato da Ferrara, buongiorno. Buongiorno signor Garantini, volevo chiederle se magari il licenziamento di Spalletti potrebbe essere in concomitanza con l'interessamento dello Spalletti a qualche altra panchina, vedi Juventus o Milan. Per un altro anno? Per un altro anno, eventualmente. Cioè, per portarsi avanti. Un eventuale licenziamento precoce, ecco, di qualche di questi allenatori. No, guarda che scusi. Se licenziano precocemente Ferrara o Leonardo, Spalletti non ci può andare perché ha già allenato la Roma quest'anno, quindi se ne parla un altro anno. Ah, ho capito, va bene. Volevo chiedere, Quaresma è rimasto all'Inter o se n'è andato? È rimasto, è vero. Va bene, la ringrazio, la saluto, buona giornata. Buongiorno Vincenzo. Massimiliano ha chiamato da Vicenza, buongiorno. Buongiorno, dottor Garanzini. Buongiorno. Allora io volevo fare 3 considerazioni sul paragone che si usa tanto, signori e signori. Ieri ho sentito la notizia. Massimiliano, mi scusi, devo farla richiamare dal centralino perché la voce è troppo disturbata e non si riesce a capire. Ne approfitterei, chiedendo un attimo di pazienza a 2 amici già in linea da Reggio Emilia e da Genova, ne approfitterei per sentire un altro passo della conferenza stampa di addio di Spalletti alla Roma, quando Spalletti parla del suo futuro. Il futuro sarà quello che ho detto prima, avrò più tempo a disposizione per la mia famiglia, soprattutto per i miei figli, per portarli a scuola. Questo già lo facevo, ora andrò anche a prendere, poi andrò in giro per il mondo a documentarmi, perché ci sono molti colleghi bravi e emergenti di cui spesso ne parlate anche voi, per cui voglio andare a vedere come lavorano, andare ad apprendere quali sono metodologie nuove. E su questo mi fa enormemente piacere di aver ricevuto poi un messaggio di solidarietà da Alex Ferguson, e allo stesso tempo, avendogli chiesto poi se posso andare a vederlo lavorare, mi ha già dato disponibilità per la prossima settimana, per cui questo sarà una cosa che farò, come fanno regolarmente tutti quando anche sono venuti da me. E poi di seguire anche le sorti della Roma, perché rimane una grande Roma e che avrà il supporto professionale di un grande allenatore come Ranieri. Io credo che non sia un caso, e sono convinto da sempre che signori si nasce. Spalletti fa certamente parte a pieno titolo di quella categoria. Aggiungerei a queste frasi il fatto non trascurabilissimo che ha lasciato nelle casse della Roma qualcosa come 6-7 milioni di euro lordi, così non esattamente quantificati, ma insomma più o meno tanta roba, ha detto lui, no? nel suo modo di dire di Certaldo. Beh, insomma, in ogni caso qualcosa di molto ma molto cospicuo ha lasciato, per quanti possa averne guadagnati. Allora, è tornato in collegamento Massimiliano, dica buongiorno. Buongiorno dottore. Adesso va meglio, sì. Ecco, no, io volevo parlare del fatto che Ranieri ieri ho sentito che il contratto non sarà ancora raggiunto perché si parlava di una questione di cifre. E invece è tutto stamattina, a posto. Stranamente. Invece stamattina leggo che veramente Spalletti è stato un signore perché ha rinunciato a un bel po' di milioni di euro per lasciare la Roma. Sì. Poi volevo fare altre due velocissime considerazioni. Per Lippi mi auguro che l'Italia venga eliminata perché non lo sopporto proprio, ma non solo per il fatto di Cassano, perché non lo reputo veramente un grande allenatore, anche se ha vinto una Coppa del Mondo e qualche campionato. E poi l'ultimissima cosa, mi fanno ridere un po' i tifosi della Roma. Io sono un tifoso del Napoli, io me la guardo a casa in televisione la partita, però mi fanno ridere questi tifosi che prima dicono parolacce, non so che cosa, Spalletti, e dopo vogliono far vedere che lo vanno a salutare a Trigoria per... Non è detto che siano gli stessi, Massimiliano, no? Fin qua credo che ci si possa arrivare. Dino da Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno, senta, buongiorno signor dottor Galantini. Io volevo rispondere a tutti quelli che si chiedono perché Lippi non chiama Cassano. Io ritengo che Lippi non consideri intelligente Cassano, nel senso che... bisogna vedere come Cassano considera Lippi, poi c'è sempre l'andata e ritorno. Comunque voglio dire, Lippi non lo considera intelligente, quindi lui per una nazionale, se non si chiama Maradona, un giocatore come lui non lo chiama. Non voleva Baggio, ha avuto dei problemi con Panucci, quindi questo è un problema caratteriale. Per lui è una persona, una prima donna, si sente anche nelle interviste Cassano fa sempre lo spiritoso, cioè non è una persona seria, quindi per lui un giocatore che non è Maradona, anche se avrà del talento, per lui ne fa sempre, quindi è inutile che la gente si chieda perché per lui non è una persona affidabile. Grazie a lei Dido, è così, intendiamoci, è esattamente come ha detto lei, l'ha detto in una maniera un po' sbrigativa, un po' brutale, e però il concetto è oggettivamente quello. Poi questo però, quando si fanno si tirano conclusioni di quel genere, poi fatalmente se ne innescano altre, no? Allora, seguendo questo ragionamento, che ripeto, immagino sia più o meno quello di Lippi, lei ha detto intelligente ed è sbagliato, io parlo di comportamenti invece, che è quello che davvero su cui davvero Lippi non si sente tranquillo e ha deciso di dare questo ostracismo a Cassano. Però poi allora bisognerebbe chiedersi se tutti quegli altri che ha convocato Lippi li sottopone a che test, no? Cioè, come evidentemente sapranno comportarsi, avranno più spirito di gruppo, eccetera, ma siamo sicuri che varrà davvero per tutti? E se fosse invece vero il parametro che dice lei, quello dell'intelligenza, quanti premi Nobel potenziali ci sono in nazionale? Insomma, sono discorsi che portano un pochino lontano, io credo che come si è sempre saputo grosso modo, che Lippi abbia per Cassano un'antipatia dovuta ai suoi comportamenti nel rispetto delle sue qualità tecniche, che però non gli sembrano nemmeno così determinanti, ed è qui il motivo del contendere. Massimo, Genova, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, una cosa molto breve riguardo, sì, prima si diceva trascirei Baresi. Ora, premessa ovviamente il valore assoluto di Baresi, però io dico, basta averli visti giocare insieme, secondo lei, no? Scirea, non le sembra che faceva le stesse cose di Baresi, se non secondo me anche qualcosina in più, però picchiando molto di meno? Per esempio, tanto per cominciare, non solo, ma non faceva le stesse cose di Baresi, faceva anche un sacco di gol in più. Perché Baresi la porta non la vedeva, non lo diceva anche Lidolm con il suo disincanto, con il suo humor. Quando io facevo libero, no? Raccontava lì, quando io facevo libero a fine carriera, io scendevo, arrivavo verso linea di area e non vedevo muro davanti a me. Franco vede, invece, diceva, parlando di Baresi, no, e stiamo parlando del Baresi giovane. Baresi è stato uno straordinario leader e organizzatore difensivo, ma Scirea è stato di più perché era più completo, perché trovava anche il gol, perché sapeva fare il centrocampista o addirittura l'attaccante aggiunto senza muoversi con la palla e facendosi trovare all'improvviso in un'area avversaria e picchiandola dentro, cosa mai da trascurare, anzi, e in più era un giocatore di una correttezza esemplare, lo stesso non si è mai potuto dire di Baresi, oggettivamente. Giuseppe da Roma, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, io devo fare un una domanda che riguarda i media, e cioè se è vero che le squadre importanti riescono in qualche misura a controllare alcuni opinion leaders del settore, le squadre meno importanti invece no, cioè se questo è un fenomeno molto rilevante o se è poco rilevante, oppure se i giornalisti per definizione vengono da un altro pianeta e quindi non sono condizionati dal potere. Io vengo da questo, non posso parlare per altri, Giuseppe, perché sono abituato a rispondere per me. Io vengo da questo pianeta, ci ho sempre vissuto in maniera più o meno accettabile, ma tutto sommato brillante. Non mi risulta di essere mai stato condizionato da alcunché o da alcunchi. 10 secondi di ritardo già, grazie a tutti gli intervenuti, grazie a Flavio Suardi in redazione, grazie a Fabio Cantadori in regia, ci sentiamo domani.